abbiamo in telefonica i Camillas. Ora, mentre tu parli con Zagor, io cerco un attimo di starnutire, perché sennò... Va bene, vai a fare le tue cose. Abbiamo appena ascoltato Sbranato, che è appunto il singolo uscito quest'estate in anteprima dal nuovo disco Discoteca Rock. Siamo al telefono con Zagor Camillas. Ciao Zagor. Ciao, chi sei, Giulia? Sì, sono io. No, sono io, Giulia. Ciao Giulia. Ciao, ciao Camilla. Sono qui a presentare l'intera band. Buon pomeriggio, come state? Ciao Andrea, Giulia. Stiamo bene, sono da solo, ma stiamo bene. Ah, ok, mi fa piacere. Anche noi stiamo bene. Cioè, anche io, noi siamo da soli. Io, Andrea, Giulia e Giulia stiamo bene. Cioè, io stavo per morire perché stavo per starnutire ed è un problema quando si è in diretta. Non morire mai, per favore. No, prima o poi sì, perché vorrei anche riposarmi. Siate eterni. Senti, l'album è bellissimo. Il nuovo disco dei Camillas. Ah, fa piacere, sei uno dei primi a dirlo, grazie. Non l'ho ancora ascoltato. Sei uno dei primi ad averlo ascoltato. Ah, non l'hai ascoltato, quindi sei un falso. Sì, lui è un falso, io sono vera, l'ho ascoltato e lo ribadisco, è bellissimo, ma in realtà molti l'avranno già ascoltato perché nonostante esca il 5 ottobre con Trova Robato, è già ascoltabile su Rockit, quindi... Sì, c'è questo asse milanese, bolognese, fiorentino, pesarese che si è attivato, promuove, lancia, ascolta, si fa ascoltare. Quindi Discoteca Rock sta già girando e ci sono già delle recensioni, delle cose che sono state dette su questo disco, come che è bellissimo, questo l'ho detta io, lo sappiamo. È una delle cose che sono state dette. Questo disco segna la fine dell'introspezione, cosa vuol dire? Basta ballate, basta parlare troppo di sé, di queste magnifiche metafore, allusioni, commozioni presentissime nei dischi precedenti. No, si fa festa, però si fa festa, tanta festa, si esagera, si sanguina. Ma voi la fate ancora quella cosa che ai concerti vi ubriacate malissimo? Noi non ci ubriachiamo mai. Non mi ubriachiamo mai? No, ma ti stai sbagliando, Andrea. Qualche volta siamo ubriacati. Ah, ok. Quando ci siamo ubriacati. Ok. No, non siamo famosi perché ci ubriachiamo, siamo famosi perché siamo bravissimi. Ok, no, ma questo lo so. Però mi ricordavo questa cosa che, infatti, e poi hai il vostro concerto comunque. È un'esperienza bellissima. Cioè, è una festa. Il fatto che hai sbagliato. Ho sbagliato tutto. Ma nella vita. Perché proprio. Un po' più attento. No, hai sbagliato a fare questa affermazione. Ti chiederei di stare un pochino più attento con le affermazioni che fai, se ti denuncio. Va benissimo. Allora io. Sei Andri, grande Andri! Grandissimo. Allora io mi rimangio tutto quello che ho detto per evitare la denuncia dei Camillas. No, t'ammazzo. Quindi non mi mandi l'avvocato Camillas? No, t'ammazzo direttamente. Okay. Ma mi ammazza, quale dei quattro Camillas mi ammazza? È un disco violento, avete capito? Okay. Un disco violento questo. Questo ho capito, sì. Senti, io non vi ho mai chiesto da dove arriva il nome Camillas, cioè perché Camillas? C'è nato come un bugno, come una cosa improvvisa. Si dice bugno a Bologna? No, Gardini, si un dice bugno a Bologna? È tipo un bubone. Un furuncolo. Ah, sì. Ok. Un furuncolo. Il nome Camillas è nato come un furuncolo, una cosa che non prevedi, che non sai perché esce. Forse hai mangiato cose che non potevi mangiare, ma forse è semplicemente... Quali sono gli ormoni? Quindi il nome è nato così. È nato così nella semplicità. Ok. Bello. È nato veramente nell'incoscienza, nel flusso di coscienza. A me ogni volta fa pensare alle Camille. E che sono le merendine, le merendine, no? Quelle... Ma no. Però Andrea, cavolo, continui a sbagliare. Continui a sbagliare. Perché non ha minimamente a che fare con le Camille, ha più che fare con i gruppi italiani anni 60, i Camaleonti, i Giganti, i gruppi che davanti erano la I. I gruppi che negli anni 60 facevano musica melodica, 60, beat, musica facile, musica orecchiabile, finto allegra. No, io solo trap, come tutti i giovani di oggi, come cerco di stare al passo con i 18 anni, e quindi vado, Andrea, solo sulla trap. Sono cresciuto per la trap. Sono un po' cresciutello, Come? Un po' cresciutello. Leggo che il vostro disco è concepito nel 77, registrato nell'84, mixato nel 93 e uscito nel 2018. Sì, sono gli anni della massima, diciamo, divulgazione del rock in ambito occidentale. Ok, un ottimo caffè caldo per te, per l'intervista. Tanto sono qui con un mio amico con cui sto facendo un featuring importante. Comunque dicevo... Chi è il tuo amico con cui fai il featuring importante? Sì, è un disco strafatto di rock, ma è un rock con suggestioni di quegli anni che hai appena detto. Okay. Cioè il rock quello più tagliente, gli anni 70... ovviamente è sempre un rock vicino al post-punk, la new wave, ma anche come ti ripeto il beat anni 60. Mirko, ti sento col fiatone. Sai perché? Perché? perché mentre faccio, mentre ti parlo, faccio le scale. Dove stai andando? Forse la devo smettere. Dove stai andando? Dai, rilassati un attimo. Okay. Come? Dove stai andando che fai le scale? Eh no, era come, no, rispondevo in movimento, però forse non mi fermo, sono fermato. Sai, sono 45 anni, magari prendo un infarto e muoio in diretta in radio, non è bello. Oh, sarebbe però una figata per noi, cioè per noi come radio. No, per me no, però per me te... Andrew. No. Non mi augurare la morte, No. Però sai, la bad news is good news, si dice in ambito giornalistico. Quindi sai, noi ti poi capisco. Ci rivenderemo questo podcast. Grazie. Sono aziendalista. Andrea, sto facendo bene il tuo lavoro. Sono un aziendalista anche io. Allora, zittiamo Andrea, torniamo a parlare del disco, per favore. Ma dobbiamo tagliare perché siamo a 6 minuti e passa di telefonata e quindi dobbiamo salutare Mirko che sta facendo le scale su e giù. Per contratto avevamo detto 8 minuti comunque. Dai, Gardini, domanda veloce. No, beh, domanda veloce non ha senso, però. No, è domanda. Allora niente, vai. Mirko, allora ti salutiamo. E io non vi saluto però, ma sono stato molto bene con voi, spero grazie. Di vedervi nella realtà. Grazie, ciao, amici. Anche noi, grazie. Ci vediamo ai concerti e niente, in bocca al lupo per uscire dal disco. Violenza, paura, sangue, festa. Via, grazie. E 666, ciao Mirko, un abbraccio a Camilla, ciao.